pane, burro e rock and roll, sembra siano le 8:01. Buongiorno. Pane, burro e rock and roll. Puntata 134. La tua colazione rock. Qui c'è l'Ariele con gli sbalzi di umore. Ogni giorno alla mattina ascolta rock and roll. Un brevissimo riassunto per quelli che si sono persi la prima ora, forse perché stavano ancora dormendo. Si sente che ci metto un po' di acidità quando dico questa cosa? Beh, ieri abbiamo giocato i numeri dell'otto e sono usciti. E Carlo li ha giocati sbagliati, quindi noi non abbiamo vinto niente. La Sciura Carla, la nostra Sciura Carla, sì, proprio lei, non li ha giocati neanche lei, quindi non ha vinto neppure lei. Speriamo che qualcuno là fuori invece li avesse azzeccati. Se ci credevate ancora, andavate avanti a giocarli, ecco. 335-100-7777 è un numero di SMS. Potete iscrivervi al provino per diventare musicisti rock con la bocca, oppure potete scrivere tutto quello che vi passa per il cranio. Noi accettiamo tutto, si piglia tutto, qua non si butta via niente, pane, burro e rock and roll. Inizia la seconda ora di diretta ovviamente con il film. Ci tiene compagnia Batantuono fino a venerdì, quindi anche quest'oggi. Restate con noi, ne sentirete delle bele. Perché si è fermata? Ho fretta, le ho detto ambasciata americana. Beh, scusi, lei non ha precisato, io modestamente ho una certa cultura e di America ce ne so due, una da sopra e una da sotto, America del Nord, America del Sud. Mi scusi, sa, ma lei sta parlando con un tassista, non con un venditore di palloncini, non so se mi spiego. Ma per favore, quando si dice ambasciata americana, sono stati uniti, no? Sono stato unito? Quanto? Ma chi? Le due Americhe, del sud e nord, hanno unito, hanno eliminato i stretti di Gibilterra? Ma, senta, io ho una fretta pazzesca, le ho detto ambasciata americana, Stati Uniti, via Veneto, va bene? Ah, via Veneto, quella di Fellino, la dolce vita, il vitellone, la bella epoca, dove c'è Muberg che fa i bagni dentro la piscina di Trevo, capite, capite, va bene? Allora, da qui deve andare verso la stazione, hai capito? Ho capito, non c'è problema, no problem, alla stazione, perfetto. C'è la prima che creato un po', ci mi scratuccia un po'. Al volante so potente, trac tra. Guido tremendamente, trac tra. In 6 secondi supero e 100, trac tra. Sono maestro di sgumamento, trac tra, trac tra. E me, che c'è? Il ringraziamento sentito come al solito alla redazione di Pane, Burro e Rock and Roll. Sentito da chi, scusi? Sentito da noi, da noi speaker. Vero, vero, l'abbiamo molto sentito questo ringraziamento. Grazie al loro lavoro che possiamo segnalarvi delle gradite notizie, quelle che tutti gli altri hanno scartato e che noi di Pane, Burro e Rock and Roll raccattiamo. Grazie redazione. Lo strano ma vero di quest'oggi recita più o meno così: vestito da uomo ragno, salva neonata, l'eroe a 5 anni. Cincos años. Un bambino di 5 anni che per giocare in casa si era travestito da uomo ragno ha salvato da un incendio terribile una bambina di 10 mesi. A riportare la storia è il quotidiano brasiliano Folha de São Paulo, spiegando che il bambino ha sentito gridare la vicina che chiedeva aiuto per le fiamme divampate nell'appartamento dove la figlia Andriele dormiva. Così hanno raccontato i vigili del fuoco di Palmera, il piccolo Riquelme Wesley Maciel dos Santos è entrato in azione, entrando nella casa vicina e afferrando la piccola di 10 mesi dalla culla e quindi riuscendo a portarla in salvo. E non ha avuto paura di sfidare le fiamme perché si sentiva l'uomo ragno, hanno riportato a verbale i vigili del fuoco che hanno interrogato il piccolo. La mamma della piccola ha invece raccontato che prima di entrare nella casa che andava a fuoco, il piccolo Riquelme l'ha anche confortata. Aperte le virgolette, mi diceva di non gridare, di non piangere perché avrebbe salvato Andriele, ha riferito la donna. L'incendio pare causato da un cortocircuito ha distrutto l'80% della casa di legno. Una patente davvero rocker al piccolo Riquelme, vestito da uomo ragno, salva una bambina. Anch'io voglio imitarlo. Da adesso in poi è il mio eroe. E lei da cosa si veste per salvare una bambina di 5 anni? Vediamo, da Gabibbo. Ma come? Non c'entra un cazzo da Gabibbo. Ah no? No. Volevo fare una cosa diversa. Un po' italiana. No, sì, no, italiana. Lasciamo stare. Un po' cheap. Però ci assomiglia un po' al Gabibbo, sai? Trova? Sì. Trova? Le manca un filo di rosso. Il rosso è sempre stato il mio debole. Il paradiso lo sa, Heaven Knows. La voce velluto di Robert Plant alle 8 e 13 minuti nella diretta di PBR, Pane, Burro e Rock and Roll. La nostra sfida contro i grandi. Sì, stiamo vivendo un nuovo corso della storia del rock and roll. Non ci chiudiamo a riccio in noi stessi, ma invitiamo tutti gli altri a diventare come noi. La grande sfida Davide contro Golia, la nicchia vincerà. Potrà una radio regionale come Rock FM distruggere i grandi network? Qualcuno ipotizza di no, ma noi continuiamo a crederci. Tanto, citando il maestro Fricantoni, la storia ci darà ragione. L'importante è giocarci i colpi bassi. E a proposito di colpi bassi, Rosy si è chiesta: non mi devo chiedere cosa Pane, Burro e Rock and Roll può fare per me, ma cosa io posso fare per Pane, Burro e Rock and Roll. Ciao Rosy. Ciao a tutti. Oggi ti faccio una presentazione serissima, abbastanza seria oggi. Per chi non lo sapesse, Rosy è una nostra radioascoltatrice che è stata costretta dalla redazione di Pane, Burro e Rock and Roll a occuparsi di calendari maschili. Giusto? Giustissimo. Obiettivo: alzare gli ormoni delle nostre radioascoltatrici e poi buttarla un po' sul sesso, così che fa sempre un po' ascolto. E questa è l'idea, cioè in realtà è solo per questo. Solo per questo che noi lo facciamo. Solo per questo che noi lo facciamo. Cara Rosy, che calendario ci hai scelto quest'oggi? Tornerei al rugby, sport di nicchia. Ma sei appassionata di rugby, sì. Rosy? No, veramente o no? Sì, tifo per il Calvisano. Il Calvisano? Cos'è il Calvisano? È una squadra di rugby del campionato di eccellenza, quindi sarebbe la Serie A del rugby. Sì. Italiano? Italiano, provincia di Brescia, perché anche lì siamo una squadra di nicchia. Ma è quella dove ci sono i fratelli? No, assolutamente. Visto che io non so come si chiamano i fratelli, tu lo sai? Ovvero? Bergamasco. Sono Marco e Mirko Bergamasco, giocano in Francia. Giocavano a Treviso. Ok, ci siamo. C'è da dire che è la seconda volta appunto che affrontiamo calendari con rugbisti nudi, sì. Anche perché il rugbista è messo abbastanza bene. Il rugbista tira. Soprattutto ne ho trovati di molti generi, in varie nazionalità, sì. Con anche dei club amatoriali che prendono in giro il più famoso calendario, che è quello della squadra francese. E quindi oggi trattiamo questo? Oggi trattiamo un calendario amatoriale, sì. Della squadra di rugby di un'università di Sheffield, sì. La Hallam University. Precisa. E anche loro, secondo me, li prendono un pochino in giro, perché non sono pose. Ma ci piace, però, è un po' di ironia. Va benissimo qui a Pane, Burro e Rock and Roll. L'ironia tira sempre. Tira sempre. Per chi la capisce, per chi non la capisce, peggio per loro. Va bene. Quindi andiamo sul calendario dei rugbisti di Sheffield. Della squadra universitaria. La squadra universitaria. Un po' ironico. Da cosa si capisce che è ironico se sono ignudi? Allora, innanzitutto le foto sono fatte in giro per il campus e per le vie di Sheffield. Quindi le signore casalinghe, mentre fanno la spesa, si sono trovate davanti a questi giocatori nudi, coperti soltanto da un calzino sul cosiddetto ciondolo. Oi là là, un po' alla Red Hot Chili Peppers. Molto Red Hot Chili Peppers. Calzino bianco? Calzino colorato, perché hanno il calzino del colore della squadra. Ho una domanda. Dimmi. Ma calzino quello corto o calzino quello lungo? Calzino lunghissimo, perché sono quelle calze da giocatore, che quindi una volta arrivati al ginocchio le puoi ancora rimborsare. Però un po', però vuoto, cioè semivuoto. Me lo auguro per loro. O arrotolato. Una parte infatti è arrotolata e non si vede nient'altro. Ma arrotolata, accartocciata o rotolino? Diciamo che è rimborsata dove cominciano i peli. Per chi non l'avesse si fosse sintonizzato proprio tre secondi fa, con Rosy stiamo parlando di uomini nudi, così per ricordarlo. Nel caso vi foste persi l'inizio della telefonata. Prego, continua. Allora, le foto sono tutte in bianco e nero, ti ho già detto, in giro per le varie... Ma tipo supermercato? Dal fiorista, al supermercato, nella rugby house, fuori dagli scalini della biblioteca. Ma quindi c'è anche pubblico casuale? Ci sono in alcune foto delle signore che stanno facendo la spesa e li guardano un attimino... Con la busta? Sì, un po' perplesse. Ce n'è una molto carina, loro fuori dal pub, foto di gruppo in varie pose artistiche, tutti con il calzino in vista. Con il calzino, scusa? Il calzino? Sì. Chi la capisce? In vista. In vista. Dici che dovevo capire qualcosa o era... Cioè, vabbè, il calzino... No, adesso però il calzino in vista, nel senso che... Nel senso che si vede questo enorme calzino che copre qualcos'altro. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, Rosy, grazie mille. Andrà a ruba il calendario dei rugbisti di Sheffield. Settimana prossima ci si risente con qualcos'altro. Hai già qualche idea? Sì. Tipo ti potrei far scegliere i casalinghi disperati. Okay. O se no rimaniamo sullo sport, ho trovato anche quello degli spadaccini francesi. Rosy, ci sentiamo. Gli spadaccini non è male. A settimana prossima. Ciao. Bonham, Ringo Starr, Steve Copeland. Beh, loro sono stati maestri della batteria. Amici, fidatevi, guardiamo in faccia la realtà. Non diventerete mai come loro. O meglio, non lo diventerete mai se vi ostinerete a voler suonare la batteria con le vostre braccia e con le vostre gambe. 1, 2, 3, 4. Pane, burro e rock and roll vi dà l'occasione di diventare batteristi rock con la bocca. Iscriviti al provino gratuito inviando un SMS al 335-100-7777 con la scritta Rock con la bocca sì! Non perdere l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca. Signore e signori, interessa il test attitudinale? Donne! No! È arrivato il test attitudinale! Sì. No, quella era la routine. Fatevi sotto, maestro. Donne, la routine ombrellaio, sì, no, che ha il test attitudinale! Andiamo al volo alla domanda di oggi. Due bei punticini per la patente di Vero Rocker. Interessano le tessere di Vero Rocker? Interessano, maestro, e come? La domanda di quest'oggi verte su un certo Eric Clapton. Slow Hand. Esattamente, ci eravamo già occupati del soprannome Slow Hand, ma quest'oggi andiamo ad occuparci di un altro soprannome. Accidenti, perché ne avevo un altro. Slow Hand non fu l'unico soprannome che affibbiarono i fan a Eric Clapton. Accidenti, ne avevo un altro. Assolutamente sì, e vi chiediamo anche quale. Tre soluzioni possibili. Ipotesi A, God, ovvero Dio. Chissà, oppure Stinky, il puzzolente per via delle flatulenze che emetteva in studio. Chissà, forse, oppure ipotesi C, the fastest, il più veloce, il più rapido. Quale dei tre è la soluzione esatta? Ditelo ora! Noi comunque la risposta giusta ve la diamo tra poco, la soluzione a poco dopo. Dunque, come dicevo, andai in Fiat Veneto, mi ha detto di passare una stazione. Quale stazione, scusa? Ma come quale stazione? Come quale stazione? Roma è piena di stazioni. C'è Tributtina, Trastevere, Ustienza, Tuscolana, senza fondare tutte le stazioni della metropolitana. Mi dica quale stazione intendo, per piacere. Stazione Termini, la conosce? Allora lo dico chiaro e tonto. Stazione Termino. Sono mica un medium che posso immaginare tutto. E mi può dire la strada, perché c'ho un attimo di smuttamento mentale e non ho... Ma insomma, stazione Termini, vicino Piazza Esedra, per favore! Ah, Piazza Esedra! Potevo dirlo subito, no? Capisco, conosco, una bella piazza, molto verde, piena di rampicanti, bella, bella, molto rustica, conosco. Piazza Esedra, no Esedra! Vabbè, stessa, stiamo a cercare il cavallo nell'uovo. Guarda che poi se arrivi a meritare e pece per lei, non dico che è colpa mia. Guarda che gente che devo caricare io, arde. Rock FM. caro Frick, quando uno è un rocker di un soprannome solo, se ne fa un baffo. Già. Ne vuole più d'uno. Soprattutto se è un virtuoso della chitarra, come il grande ciclista Eric Clapton. Non era un ciclista, era uno dei più grandi chitarristi del mondo. Volevo vedere se stava attento. Slow Hand non è l'unico soprannome che ebbe. Vi abbiamo chiesto quale dei tre proposti era l'altro, forse come ipotizzato dalla soluzione A, God, Dio. Ma colpo di scena! Ah, come? Tocca giocarci subito l'asso! Ebbene sì! Fu esatto. Soprannominato Dio. Si leggevano infatti sui muri di Londra a quel tempo, negli anni 60. Certo. Eric Clapton is God. Eric Clapton è Dio. Esattamente così, era il periodo dei Cream, la super formazione, e ovviamente il buon Clapton ci dava dentro. Quindi prima di essere chiamato Slow Hand, i suoi fans appunto scrivevano sui muri di Londra Clapton is God. Quindi non è mai stato chiamato Stinky, puzzolente. Buon per lui, insomma. E non è mai stato chiamato The Fastest, il più veloce. Questo infatti, forse gli sarebbe piaciuto. Sì, infatti non era velocissimo, ma accidenti. C'aveva il tocco. Ma accidenti. Suonare come lui, laddove si dimostra che la velocità non è sempre tutto nella vita. Ma non lo rifà il riff quello normale, eh? Vai, vai che vado con la bocca, vai. Bello quello base. La chiusura non era bellissima. Mi sto allenando per diventare chitarrista rock con la bocca. Buondì dall'Ariele. Questo era Eric Clapton, citato nel nostro test attitudinale. Eric Clapton God. Tra l'altro le iniziali ECG come elettrocardiogramma. La sua musica va dritta al cuore. Là fuori direte: "Az, come hai preparato questo speaker? Ne sa tante." L'ho letto da un SMS di Andrea Di Lucca. Grazie per avermi fatto bella figura. Non ditemi che il gruppo d'ascolto delle truccatrici e del Deep Pork non ha sentito i saluti che ho fatto prima. Cioè, ragazze, se ve le siete persi, saluti, vi dico solo, riascoltatevi la puntata. Ho fatto un saluto tutto bello con God Gave Rock and Roll. Io sto a lavoro, però se poi voi fate dell'altro non è colpa mia. Ciao Gab, ciao Roxin da Milano. Ciao Gianfra, ciao ragazza che sarebbe dovuta venire in radio a ritirare i primi vinti e soprattutto la patente rubata a Londra. E soprattutto ciao Gem, ciao Masi da Milano, che vorrebbe le storie di Rogna e Frigo in CD. La miseria. Beh, intanto vi ricordo sempre che sulla nostra pagina di MySpace /paneburro FM ogni giorno potete ascoltare 4 interventi delle puntate e spesso e volentieri ci sono gli interventi di Rogna e Frigo scaricabili, quindi dai. Ciao Matteo da Livorno, che vuoi il calendario di Rock FM con Claudia ma soprattutto Frick. Non farmi parlare. Ciao Lori Patente 552. Ciao Oppo Marco. Ma questo SMS, Marco, era per iscriverti a Rock con la bocca? Perché lo devi scrivere, se no non funziona. Ma secondo voi, e poi vado con la musica, è rock se tua mamma esce con le tue chiavi, ti chiude dentro casa e tu non riesci ad aprire per andare al lavoro? Barbara, Barbara, buona giornata, ascolta Rock FM, no? Sale la tensione, tra pochissimi secondi un nuovo radioascoltatore che fa il provino per diventare musicista rock con la bocca! Allora, i patti sono chiari, maestro. Sì. Io e lei siamo i provinandi, loro là fuori sono i provinati. Quindi loro cercano di diventare musicisti rock con la bocca, noi decidiamo se possono farlo oppure no. Sì, ma manca per esempio la batteria, quindi io potrei farla. Stia attento, maestro Freccantoni, perché con l'intervento di oggi, secondo me, gli afamo. Potremmo avere il primo batterista rock con la bocca, perché la redazione mi segnala che direttamente da Faenza abbiamo in linea Daniele, pronto? Ciao, ciao, ciao Ariel. Ci stai sentendo da Faenza? Sì, sì, sì, sono da Faenza. No, noi sappiamo che sei là vicino, ti vediamo. Sì, in realtà è vero, sono vicino a Faenza, sono di Castel Bolognese. Ah, Tanato, lo sai. Un saluto da Roberto Freccantoni innanzitutto. Grazie, ciao Daniele. Daniele. Lo ciao. Sai, Daniele, che a Faenza c'è un famosissimo gruppo rock demenziale? Ah, sì? Si chiamano i... Copertoni. Copertoni, bravissimo, i Copertoni, Valentino Bettini e Sammy dei Copertoni. Esatto. Conoscete anche qualche canzone dei Copertoni? Sì, l'hit dei Copertoni, ovvero... che è Cacca al diavolo, un fiore per Gesù. Esatto, complimenti a tutti voi. Senti Daniele, hai mai suonato con i Copertoni tu? No, in realtà sono andato a vedere i loro concerti, ma mai suonato con loro, li conosco di vista, diciamo. Nella vita cosa fai di bello, se possiamo chiedertelo? Faccio l'idraulico. Beh, in questo momento dove sei? Ah, sono a Forlì in cantiere proprio. In cantiere. Benissimo, senti, tu fai anche lavoretti, nell'Emilia Romagna si chiamano ciappinetti, cioè quei lavori casalinghi. Sì. Benissimo, se poi mi lasci il tuo numero io dovrei... Perché è difficilissimo trovare un fontaniere, un idraulico, maestro, fai un lavoro geniale, per favore, Daniele. Che poi potrebbero anche pensare che farebbe dei favoritismi solo no, per questo. No, questo no, questo no. Allora Daniele, nella vita hai suoni uno strumento vero? Suono le percussioni. Ah, vedi, quindi ognuno sceglie un po'. Stiamo scoprendo che ognuno di voi sceglie un po' lo strumento che suona anche nella vita. Vero. Senti, come mai hai deciso di voler diventare un musicista rock con la bocca? Ah, ho detto proviamo a mandare il messaggio, vediamo cosa capita. Non me l'aspettavo invece. Invece il provino, eccoti qua pronto per rovinare la tua carriera da musicista. Lo so. Diretta e soprattutto, la tua reputazione di bravo idraulico. Esatto, ovviamente. Senti, suoni anche con un gruppo le percussioni vere? No, per ora no. Ok, ti diletti tu? Sì, da sì, solo. Sì, mi diletto io da solo. Metterò una buona parola con i Copertoni. Grazie, grazie. I Copertoni li hanno le percussioni? No. Può essere di no. Gli amancano, come si dice in Emilia Romagna, gli amancano. Allora Daniele, chiediamo a te come a tutti, se suoni un brano originale oppure hai scelto di coverizzare un classico della storia del rock. Una cover. Che cosa hai scelto di bello? Good Times, Bad Times dei Led Zeppelin. Alla faccia, un pezzo però, tra l'altro, bonzo buona, ma la batteria, roba difficile. Daniele, io ti sento bello tranquillo. Sì, anche quindi, sì, sì. Secondo me siamo pronti per partire col provino per diventare musicista rock con la bocca. Tu ci sei? Sì, io ci sono. Noi ci siamo da Castel Bolognese, giusto. Dico esatto, bene. Giusto. Daniele da Faenza ci suona Good Times, Bad Times dei Led Zeppelin alle percussioni con la bocca. Vai Daniele! Vai Daniele! Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, grazie Daniele, bravissimo. A tempo. Come io... tutti i veri percussionisti, non ha né accelerato né rallentato, bravissimo. Senti, io chiudendo gli occhi per un attimo sentivo anche la voce, guarda, sentivo anche Robert Plant che accennava un good time, bad time. Sarà anche lui qui in cantiere con me da qualche parte. Daniele, l'hai portata l'elettricista ultimamente. L'hai portata veramente da signore. Bravo. Le faremo sapere, come stiamo dicendo a tutti. In realtà, a onor del vero, sei il primo batterista provinato, quindi per adesso sei messo bene. Molto bene. Non ci sono altri concorrenti. Hai scelto bene. Molto bene. Come stiamo chiedendo a tutti, nel caso dovessimo formare una band di musica rock con la bocca, tu sarai dei nostri? Ovviamente sì. Speriamo di sentirci presto. Allora, un'ultima segnalazione, posso farla? Il numero di cellulare di Daniele finisce col 666. Lo sapevo che lo dicevate prima o poi. Vorrà dire qualcosa? Chi lo sa? Ma... Beh. Inquietante, volevo chiudere così, maniera esoterica. No, ma tanto non ci pensiamo, no? Esatto. Più di tanto, Daniele. O sì, ti ma fa effetto cosa questa cosa? No, una cosa. Cioè, l'ho scelto io, però. Ah, l'hai scelto allora. Sì, sì, sì. Complimenti. Ah, va bene, no, è una provocazione. Daniele, a presto, speriamo. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Bravissimo, ciao. Times, bad times. Yeah, diglielo. 8:47 minuti primi. Questa è la versione dei Led Zeppelin. Bella, bella. Ma niente a che vedere con la versione di Daniele, il nostro amico, che ce l'ha interpretata alle percussioni. E giro sempre l'appello ai timidoni là fuori, ai radioascoltatori passivi: non fatevi sfuggire questa occasione di diventare musicisti rock con la bocca, perché poi ve ne pentirete, eh? E poi direte: no, avrei voluto farlo, invece non l'ho fatto. Iscrivetevi al servizio, al nostro numero di SMS. Saluto al Pippero, alle 10 faccio un partito, mi trovate in San Babila, si chiama il Partito del Popolo del Rock. Oppure Partito del Popolo Rock. Ci stiamo ancora pensando, già che ci sono, vendo anche scope, scopini e scopettoni. Venite numerosi, ciao Pippero. Ciao, grazie per esserti sentito in dovere di condividere con noi questa cosa. Un abbraccio a Mauro e ai quattro sintonizzati su Rock FM. So che stanno studiando duro per diventare dei veri rocker, e quindi ne approfitto per salutarli. Un saluto a Grace, che voleva sapere se ci sono persone all'ascolto che da giovani andavano a ballare al Taxi o al Viridis. Mo. Chi ci vuoi fare? Un saluto anche a Ste. Allora, Ste commenta una cosa che ho detto in un attimo di delirio su God Gave Rock and Roll to You dei Kiss stamane. Ho delirato, insomma. Devo aver detto: voi che avete l'amico che ascolta Gigi D'Alessio, chiamatelo subito e ditegli che Dio vi ha dato, che ha dato il rock and roll anche a voi. E Ste commenta: se uno ascolta Gigi D'Alessio non può essere mio amico. Non fare così, Ste! Non chiuderti al mondo! Apri il mondo al rock and roll! Boh, questo è il nuovo motto, sembrava suonasse bene. Rogna e frigo? Frigo e rogna. È incredibile, Rogna! Cosa, frigo? Sto leggendo Una fiaba degli umani. E cos'è una fiaba? È una storiella, la fanno leggere ai bambini, roba che secondo loro dovrebbe essere educativa. Ah sì? Beh, come si chiama? Il Pifferaio Magico. E cosa racconta? Oh, c'è un tipo strano che suonando un piffero incanta centinaia e centinaia di piccoli topi indifesi che lo seguono. Li porta tutti rincoglioniti fino a un dirupo e muoiono tutti. No. Sì, sì, proprio così. Pervertiti maledetti, già da bambini gli fanno leggere queste schifezze immonde. Sì, gli abitano agli olocausti così, già da piccoli. Che roba, che schifo, ribrezzo, ribrezzo. La grande musica di Rock FM, ma permettetemi di dirlo, fiore all'occhiello di questa trasmissione, il grandissimo Roberto Fricantoni, sempre più in forma. Scusi, DJ Ariel, devo dire che sì. Il fiore all'occhiello oggi è un po' sfiorito. La non mi sento po'. Molto bene. Come mai, maestro? Mi scuso con lei, con tutti gli spettatori. No, sono diversi giorni che non mi sento molto bene. Ha dei problemi? Sì, non so se posso confidarli adesso così. No, maestro, insomma. Pane, burro e rock and roll è la sua famiglia, se lo ricordi sempre. Ma io infatti la vivo come la mia casa, per cui perché non dire che quel contratto, quel contrattino col diavolo, sì, quello che continua a dire che Vasco l'ha firmato e lei no. Sì. Forse l'ho firmato anch'io. Mi sa di sì, maestro. Però sono un po' pentito, ci ho ripensato. Si sente di voler parlare al contrario anche quest'oggi? Ah no, guardi, io lo eviterei senz'altro, non dipende. Però quando mi fa con gli occhietti, cosa tossisce? Allora, cosa sta facendo? Ma cosa sputi? Non sputi, maestro! Ma questa... Maestro, ha sputato una mosca. Conosco? Sì, guardi, non la vede che gira nello studio. Facciamola uscire anche tra l'altro. Vada fuori, fuori. Guardi, se posso essere sincero, da ieri che continua questa... Manco... Guardami qua una... Ma... Tre! Quattro! Maestro! Lei sta sputando... Maestro, sta sputando nelle mosche! Uscite dallo studio! Aprite! Via! Maestro, la prego, faccia qualcosa, si toppi la bocca! Se la smette... Le sente... Ne escono... Dal naso! Dal naso, eccone qui un'altra... La fai fuori! La smetta, maestro! Non posso fare niente. Non posso farci niente. Dovrebbe, non le stanno uscendo più però adesso. Le sono uscite delle mosche dal... Lei ha sputato mosche, freak. L'altro giorno mi è capitato di vomitare un rospo. È andata maestro. Così. È un momento difficile. Bisogna chiedere aiuto. Ma sì. Le staremo sempre vicini. Grazie, amici. Eccola un'altra. Andiamo, via. Ma non faccia apposta, sa... No. Non ce l'abbia. Non se l'abbia male, DJ Ariele. Io eviterei, ma non è colpa mia. Abbiate pietà, solidarietà. Refugee, Tom Petty and the Heartbreaker. All'amica che chiedeva se qualcuno andava a ballare l'almo al Viridis, abbiamo trovato uno che metteva anche i dischi. Cioè così, voi fate domande e noi abbiamo risposte per tutti, incredibile. Non vi leggo cosa avete commentato della possibilità di avere amici che ascoltano Gigi D'Alessio. E invece, già che ci sono, pongo termine a questa delirante puntata numero 134. Questa è la fine. La potrete ascoltare tra pochi minuti in streaming su RadioRockFM.com, volendolo anche in podcast, spero. Io li preparo, poi non so se vanno in onda oppure no. E su myspace.com/paneburrofm ci trovate le scenette migliori. Questa è la fine. Questa è veramente la fine, ragazzi. 8 e 58 minuti primi, sigla. Sigla. Diamo appuntamento a domani. Se lo vorrete, ci troverete qui su Rock FM. Pane, burro e rock and roll. La tua colazione rock. Aia, mi si incollano le cuffie, caravelli. Pane, burro e rock and roll. Devono andare in giro con le cuffie tutto il giorno. Very good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta. Tra i mille saluti che non riesco a fare, saluto Chris e Marco, 11 e 8 anni, ciao. A proposito, ciao Ariel, ciao a Marco. Tutti. A proposito di incollamenti, sai che venerdì scorso una parte di Arden Davis è incollata a Pane, burro, rock and roll. Abbiamo fatto un programma insieme. Non è... Tra l'altro dicono che è anche piaciuto, quindi probabilmente riproporremo. Sul canale destro uno, sul canale sinistro l'altro. Stavamo pensando anche a farlo noi di mattina, cioè per renderti il favore vorremmo trasmettere Arden Davis prossimamente di mattina dalle 7 alle 9. Ok. Ci proveremo. Vi lascio con Marco Garavelli fino al mezzodì. Buona giornata a tutti. A ciao. Domani.